Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè. Come coniugare le politiche dei trasporti con le politiche dell'ambiente e con lo sviluppo economico? È questa una delle domande a cui tenterà di dare risposta il prossimo G7 dei trasporti a Cagliari, ma è anche il tema che verrà affrontato lunedì prossimo a Roma nel corso di Trasportiamo l'Italia, l'evento dedicato all'autotrasporto e organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti proprio in vista del G7. Negli ultimi anni il settore dell'autotrasporto ha compiuto importanti passi verso una maggiore sostenibilità ed efficienza, ma molto c'è ancora da fare. Nuove tecnologie, ricerca scientifica e regolamenti adeguati saranno il perno della mobilità del futuro. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. E si svolgerà lunedì prossimo a Roma un importante appuntamento legato a questo mondo, un evento intitolato Trasportiamo l'Italia, collegato al G7 dei trasporti che si svolgerà a fine mese in Sardegna. Ne parliamo in compagnia dei nostri ospiti, diversi ospiti in questa puntata di oggi. Vi presento il primo, Massimo Marciani, che è il presidente del Comitato Tecnico Trasporto Merci di AIPCR, che parteciperà appunto a questo incontro. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Buon pomeriggio. Allora, l'appuntamento di lunedì sarà un importante momento di confronto per questo settore. Ci saranno 5 tavoli di lavoro. Quali saranno i temi affrontati? I tavoli di lavoro sono dei tavoli di lavoro che sono stati pensati sulle diverse dimensioni dell'autotrasporto, visto in una proiezione futura, in una proiezione di sviluppo resiliente. Chiaramente avremo 3 tavoli che sono centrati sulla sostenibilità, quindi la sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale e sostenibilità economica. E poi 2 tavoli un pochettino più specializzati sulla tecnologia, uno sul tracciamento dei veicoli con tutto lo sviluppo connesso al veicolo e all'infrastruttura, e l'altro invece più centrato sulla strada e sulle cosiddette smart road, con tutte le prospettive che vengono aperte dallo sviluppo delle nuove tecnologie. Ecco, proprio il tavolo delle smart roads, cioè quello che lei modererà, sarà un tavolo centrale per l'evoluzione del mondo dei trasporti, perché è un mondo che ha bisogno sempre di più di strade intelligenti e di sistemi che consentano il dialogo fra l'infrastruttura e il veicolo. Quali sono le prospettive in questo senso? Direi che le prospettive per il settore della logistica sono assolutamente interessanti. Gli investimenti che ci sono da fare in questo settore non sono trascurabili, possiamo dire, sia dal punto di vista degli operatori, sia dal punto di vista dei gestori delle infrastrutture, e quindi, anche se potrebbe sembrare da questo punto di vista un approccio un pochino troppo strutturato, quello che serve in questo momento è una chiara impostazione metodologica e un'impostazione di tipo legislativo di questo settore, perché chi deve fare degli investimenti deve poter essere certo del ritorno sugli investimenti che vengono fatti, e quindi il quadro normativo all'interno del quale sviluppare questi investimenti è sicuramente la priorità. Un altro tema è sicuramente quello della logistica urbana. Tra poco tra i nostri ospiti avremo anche l'onorevole Catalano per parlarci di una importante novità che riguarda le aree di carico e scarico delle merci. Ecco, ma in generale il tema della logistica urbana perché è così delicato in questo momento per tutto il mondo dei trasporti? La logistica urbana è quel segmento della logistica che è più vicino ai cittadini, è più vicino alla vita di tutti i giorni, è più vicino alle esigenze dell'e-commerce e della nuova distribuzione urbana, che prevede una frammentazione delle consegne e un aumento della frequenza delle stesse. Quando si apre un mercato, come si sta aprendo in questo momento nel settore della logistica urbana, la tecnologia deve aiutare, deve essere il fattore abilitante, ma deve essere quel fattore che consente di poter gestire flussi e domande elevate all'interno però di uno sviluppo che, come abbiamo detto precedentemente, deve essere resiliente e sostenibile. L'evento è organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in particolare dall'Albo degli Autotrasportatori, l'organo amministrativo che sovrintende in qualche modo il mondo del trasporto, e ne parliamo in compagnia della presidentessa del Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori, nonché vice capo di gabinetto, Maria Teresa Di Matteo. Dottoressa Di Matteo, perché l'esigenza di questo evento dedicato al mondo dell'autotrasporto e quali saranno le principali tematiche che voi volete portare ai tavoli di confronto? La logica di dedicare un'attenzione, diciamo, a tutto il mondo dei trasporti, tant'è vero che ci sono state una serie di eventi specifici su varie modalità, e anche l'autotrasporto è indubbiamente una modalità fondamentale, diciamo, per il trasporto delle merci, e per cui si è pensato un iter procedurale verso il G7 di fare una serie di eventi. La logica voleva che, insomma, fosse interessato tutto il mondo dell'autotrasporto, e quindi chiaramente l'Albo non poteva che farsi promotore di questo evento. L'Albo che tra l'altro è già protagonista, si è reso protagonista in questi ultimi mesi di una serie di iniziative che saranno sicuramente portate anche ai tavoli, tra queste ad esempio il progetto Formazione Giovani, che ha riscosso un successo direi quasi inaspettato. Questo progetto, di cui sono molto contenta, sta avendo un successo importante, le domande sono state oltre 2500, e questo mi sembra un risultato significativo sulle azioni che si possono fare, che il mondo dell'autotrasporto, in particolare l'Albo degli Autotrasportatori, può avviare nell'interesse del paese, del sistema, della categoria, dei cittadini tutti. 5 tavoli di confronto nel corso di questo appuntamento di lunedì, in cui saranno affrontati tutti i vari punti, tanti punti, le tante sfaccettature che in qualche modo compongono il mondo del trasporto e dell'autotrasporto ovviamente in particolare. Le conclusioni saranno affidate ovviamente al Ministro. Quali sono le aspettative rispetto alla riuscita di questi lavori? I tavoli, diciamo, sono un po' i perni di quelli che sono delle problematiche dell'autotrasporto. Il problema della sostenibilità ambientale, per il quale il Ministro si è molto speso, incontrando peraltro l'interesse della categoria con una serie di misure che piano piano stanno prendendo forma, mi riferisco al mare bonus, l'eco bonus, gli incentivi per modalità alternative di trasporto, la sostenibilità sociale, tutte le problematiche collegate al mondo del lavoro rispetto con le problematiche dell'antidumping, dei tempi di guida e di riposo. Peraltro si sta procedendo a una revisione della normativa, diciamo, a livello comunitario, e sicuramente il tema di grandissimo interesse. E il tema della sostenibilità economica, quindi, diciamo, i nuovi carburanti, le innovazioni nei veicoli che comunque sono sempre collegate alla sostenibilità. E in ogni caso tutte le problematiche hanno questo iter conduttore, il tema appunto della sostenibilità. E tra i temi che saranno al centro dell'incontro di lunedì prossimo alla stazione Ostiense, in questo che è un side event G7 autotrasporto preparatorio dei lavori che si terranno a fine mese a Cagliari, tra questi temi, dicevamo, c'è sicuramente un provvedimento che in questo momento è all'esame delle aule parlamentari, ma che sicuramente sarà approvato in quanto è inserito nella cosiddetta manovrina, un provvedimento che cambierà radicalmente il nostro approccio alle aree di carico e scarico all'interno delle città. Ne abbiamo parlato più volte, uno dei temi più drammatici per chi si deve occupare di distribuzione urbana e di distribuzione cittadina è sicuramente quello di non riuscire mai o quasi mai a trovare delle piazzole di carico e scarico libere. Un gruppo di parlamentari capeggiato da Ivan Catalano, che abbiamo in collegamento con noi, ci ha pensato e ha inserito questo provvedimento all'interno di questo testo. Di che cosa si tratta, onorevole Catalano? Si tratta di un provvedimento che si aspettava dal 2014 e consentirà ai comuni di poter sanzionare i veicoli che sosterranno senza avere il permesso nelle aree di carico e scarico destinate invece ai veicoli merci. In realtà dovrebbe essere già così, già sono previste delle sanzioni. Perché adesso non vengono applicate? Innovazione in più, nel senso che potrà consentire ai comuni di fare delle multe in automatico senza dover avere la necessità di dover chiamare il vigile accertatore, ma tramite delle telecamere che sono collegate direttamente al centro del Ministero dei Trasporti, poter fare delle multe in automatico. Cosa cambierà praticamente per chi si occupa di carico e scarico in città? Cambierà che trovandosi delle piazzole libere sfruttando appunto la dissuasione che dovrebbero dare i nuovi sistemi sanzionatori, la possibilità di usare queste aree e poter fare appunto logistica urbana. Consideriamo che se le piazzole riusciremo a renderle effettivamente libere, un domani potremo anche dotarle ad esempio di colonnine di ricarica elettrica nel caso di veicoli di mobilità elettrica. Quindi un primo passo verso un'evoluzione sostenibile anche della distribuzione urbana. Grazie onorevole Catalano, termina qui anche questa puntata di Container. Prima di lasciarci vi ricordo che questa è una produzione realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. E vi ricordo anche il nostro indirizzo email, che è container@radio24.it. La nostra trasmissione ritorna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato.